Oggi, a Dio piacendo, dobbiamo concludere il ministero di Gesù in Galilea, perché poi se riusciamo a fare un incontro, dovremmo farlo prima di Pasqua, magari nella settimana santa, dobbiamo fare un attimo un saltino e vedere la passione di Gesù secondo Luca. E poi fare una piccola, insomma, variante, perché dopo vedere la risurrezione e poi riprendere la seconda parte del viaggio di Gesù. Adesso vedremo un pochettino come fare. Allora, abbiamo il ministero di Gesù in Galilea dal capitolo 7 in poi, fino, se vi ricorderete, alla fine del capitolo 9, e il più grande è l'uso del nome di Gesù, quando Gesù comincia il suo viaggio verso Gerusalemme, tendendo decisamente verso il termine ultimo, verso la meta della sua passione. Allora, vi ricordo, tanto per seguire un pochino le slides, quando vedete una scritta non in grassetto, significa che è un passo condiviso dagli altri evangelisti, quindi che lo presento brevemente. Quando invece sarà qualche passo in grassetto, ci fermiamo con maggiore attenzione, perché è un episodio tipico di San Luca. Quando studiamo i Vangeli, quando leggiamo insieme i Vangeli, occorre sempre fare attenzione alle parti proprie del singolo evangelista, perché quelle parti proprie vuol dire che lui sta dicendo qualche cosa che è la sua presentazione particolare di Gesù. Sapete che i Vangeli sono quattro, non uno di più né uno di meno, perché per divina volontà dovevano essere quattro, perché tutti e quattro i Vangeli messi insieme sono come quattro focalizzazioni distinte. Voi sapete che noi abbiamo le tre dimensioni: lunghezza, larghezza e profondità, più la quarta, che è quella del tempo. Facciamo un attimo così, quindi ciascuno di questi coglie una dimensione precisa che dobbiamo tenere presente per comprendere bene l'universalità del messaggio di Gesù. Allora, la guarigione del servo del centurione, un episodio abbastanza famoso. Io nel frattempo prendo anche, insomma, i riferimenti biblici, così possiamo vedere alle spalle. È un episodio abbastanza famoso, lo conosciamo tutti bene, perché lo abbiamo appena detto, chi di voi stava durante la Santa Messa ogni volta prima di fare la comunione. Il famoso episodio di questo centurione romano che c'ha questo servo gravemente malato, chiede aiuto a Gesù. Già questo è un mezzo miracolo, perché un pagano che chiede aiuto a Gesù, a differenza di molti israeliti, e non solo chiede aiuto, ma lo chiede anche alla grande. Cioè Gesù dice: va bene, adesso vengo e te lo guarisco. E questo dice: io non sono degno che tu vieni a casa mia, perché io sono un pagano peccatore. Numero uno, l'umiltà è sempre molto gradita al nostro Signore, e non è mai abbastanza, d'accordo? Poi dice: non c'è bisogno che vieni. Cioè, noi dobbiamo un attimo, capito, renderci un pochino conto, questo è un pagano, questo qui. Cioè, pensate a quante parti nel Vangelo dove Gesù dice: se non vedete segni e prodigi voi non credete, no? Cioè, basta che tu dici una parola e il mio servo sarà guarito. Voi capite, questo forse non si rendeva conto di quello che stava dicendo, ma nella Sacra Scrittura c'è scritto, nell'Antico Testamento, riferito a Dio: egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Per Dio parlare non è come per me che sto parlando adesso. Parlare, voi sapete che significa parlare? Significa fare un atto con cui la mia volontà comunica qualcosa. Quando Dio una cosa la vuole, è l'unico, Dio gli basta volerne una cosa, perché quella cosa è. Se Dio volesse adesso fermare il corso del pianeta Terra, non farlo più girare su se stessa a 1600 km all'ora, lo fa. Ma non è che per farlo gli basta un atto della sua volontà, capite? Voi sapete, insomma, che io sono molto appassionato della divina volontà, perché l'ho imparata, no? Comunque queste cose le sa la Chiesa in quanto tale. A Dio gli basta volerla una cosa, perché quella cosa immediatamente, senza nessuna possibilità di resistenza e di ostacolo da parte di nessuno, quella cosa si attua. Voglio, vorrei vedere adesso chi di noi ci crede al 100%, no, del genere qua. Voglio proprio vedere, con me compreso, questo. Un pagano, un centurione, un uomo di guerra. Immaginate tutta la cicatrice. Un centurione era un grado abbastanza basso, non era. Centurione vuol dire capo di 100 uomini, quindi non lo so, oggi non so, praticamente sarà stato un caporale, insomma, cioè, non è un sottufficiale, non era un pezzo grosso, insomma, era un colonnello, insomma, maggiore, no? Era uno, insomma, va a dire una cosa del genere. E Gesù, vedete, all'udire questo, versetto 9, alle mie spalle, Gesù restò ammirato. Cioè, ma tu guarda questo. Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Quando tornano a casa, trovano il servo guarito. Perché è vero che Gesù, quando era sulla terra, il Verbo fatto carne, era certamente con la sua umanità circoscritto in un luogo, ma con la sua divinità non cessava di essere presente dovunque e dappertutto. Se vi ricordate la novena dell'Immacolata, ora lo facciamo ogni anno, e io lo faccio anche a Capodanno, c'è un inno mariano che è la Catistos, che è bellissimo. A un certo punto dice: era tutto qui in terra e di sé tutti i cieli riempiva il Dio Verbo infinito. Non già uno scambio di luoghi, ma un dolce abbassarsi del Verbo fu nascere da donna. Cioè, questo gli sta dicendo che lui, pur essendo, non soltanto gli sta dicendo che lo riconosce come Dio e che quindi comanda e tutto è fatto, ma che come Dio, anche se in quel momento sta parlando con il centurione, quindi con la sua umanità circoscritto in quel luogo e in quell'istante della storia, lui come Dio fa quello che gli pare. Insomma, ragazzi, cioè veramente questa è tanta roba che sta qui, È una lezione, diciamo, di fede a tutti noi. Quindi vi posso dire, la conoscenza del mondo della divina volontà, per esempio, ti fa campare così bene, perché tu sei sotto, cioè è così anche se tu non lo riconosci, ma tu sei sotto lo sguardo, sotto la potenza, sotto l'attenzione. Cioè, dovete calcolare che Dio a noi non ci perde distante un solo millisecondo, ok? Un solo millisecondo. E non c'è niente che può sfuggire alla sua potenza e al suo volere. Niente, non significa niente. Quando uno a questo ci crede, ma ci crede che ci crede, capite perché i salmi dicono: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male. Ma chi mi tocca a me? Chi ti tocca a te? E se qualcosa ti tocca col divino beneplacito, se no quella cosa non te tocca. Ecco, vi assicuro che non sono molti a credere queste cose. Anche molte persone, ne parlo perché qualcuno di voi partecipa alle veglie, quindi ha sentito qualcosa, anche di molti che seguono la divina volontà. Io a volte sento discorsi e poi dico: questi seguono la divina volontà. Non voglio adesso sembrare superbo, dico: questi non hanno capito assolutamente niente della divina volontà. Zero. Che fanno discorsi o si preoccupano di cose che dicono: conosciamo due divine volontà differenti. Sono quelli che, capite, stanno a certe apparizioni mariane, dove la Madonna appare come una che mette paura, una mezza terrorista, parla di catastrofi, di cose di questo genere. Dico: la Madre di Dio, la persona più dolce dell'universo, la persona più buona, la piena di grazia, l'Immacolata, che è stata la parte nostra, che prega per i peccatori, che cioè agisce in questo modo. Conosciamo due Madonne diverse, ma qua oggi, capite, sa, qua in questi tempi tutto è possibile, dico, ma stiamo scherzando. Ecco, vabbè, scusate la digressione. Invece questo passo successivo, la risurrezione del figlio della vedova di Nain, questo ce lo riporta soltanto San Luca. Allora, innanzitutto, per la nostra formazione, diciamo così, globale, dobbiamo ricordare primo che Gesù, questo, se andate a qualche quiz memorizzate, classica domanda: quante risurrezioni Gesù ha operato quando era sulla terra? Chi lo sa? Buon'anima di mia madre, buon'anima di mia madre mi diceva, quando tornava a casa dal seminario, mi diceva: l'altro giorno ho visto un quiz, sono tutti bravissimi, quando c'è una domanda di religione, in che giorno è morto nostro Signore? Lunedì, mercoledì, venerdì o domenica? Domenica, l'ultima. Allora, delle risurrezioni nostro Signore nel Vangelo ne ha fatte tre. Una ce la racconta Luca, un'altra ce la raccontano tutti e tre sinottici, che è questa. Questa è la risurrezione del figlio della vedova di Nain. Gli altri sinottici raccontano il figlio del sinagogo Giairo, la bambina a cui gli dice Talita cum, passo famoso, io ti fanciullo e dico alzati, e poi quello più strepitoso, quello che avrebbe dovuto ripiegare pure le pietre, perché un morto dei 4 giorni dal cimitero non ci torna, è l'ultimo miracolo, secondo San Giovanni, l'ultimo miracolo percepibile, la risurrezione di Lazzaro. Queste resurrezioni, tenete presente una cosa, sono resurrezioni vere, ma non sono la stessa cosa della nostra risurrezione alla fine dei tempi, perché Lazzaro è stato risorto, poi sapete la storia di Lazzaro come è andata avanti, no? Dopo l'ascensione di Gesù, Lazzaro è diventato un grande apostolo, è diventato vescovo ed è stato martirizzato, morto. Quindi la tomba di Lazzaro è vuota, se andiamo a vedere dietro Betania, ma da qualche altra parte sta sepolto Lazzaro, non è che, cioè, è stato soltanto un secondo appuntamento, questi qua sono passati per la morte 2 volte anziché una, vabbè, ma sono morti tutti quanti. Quando invece noi risorgeremo, ci sarà la risurrezione uguale a quella di nostro Signore. Cristo risuscitato dai morti non muore più, quindi è la vittoria sulla morte, è l'acquisizione della glorificazione del corpo nostro e dell'incorruttibilità perpetua, quindi è un'altra cosa. Quindi qualche esegeta dice queste non sono proprio risurrezioni alla Gesù Cristo, sono rianimazioni. Però la rianimazione non è proprio, perché rianimazione è che la fai col massaggio cardiaco, capito? Quindi questi erano morti veramente, non erano semplicemente svenuti, o non gli ha fatto il massaggio cardiaco nostro Signore, ha richiamato l'anima dentro quel corpo, è un'altra cosa, Quindi è tanta roba, però sono comunque differenti dalla risurrezione della carne. Ora, vedete, questo episodio lo riporta soltanto Luca. Se vi ricordate, perché purtroppo con l'incontro al mese facciamo un po' di ripasso, no? Luca è il Vangelo sicuramente preferito di Papa Francesco, cioè, al 100%, perché è il Vangelo della misericordia, della bontà di Dio. Ho detto, in Luca c'è la parabola del buon samaritano, solo Luca ce l'ha, la vedremo. La parabola del figlio del prodigo, mi pare che ci sta proprio domenica prossima la messa, se non sbaglio, ce l'ha soltanto Luca. Quindi questo episodio, la risurrezione, una madre vedova, figlio unico di madre vedova, il Signore, guarda, versetto 13, il Signore la guarda e ne ebbe compassione. In greco il termine è ancora più bello, cioè Gesù, se vede una sofferenza così grande, non ce la fa, deve intervenire, deve consolare, deve fare qualcosa. E guardate che il cuore di Gesù è veramente così. Se c'è una cosa di cui Gesù soffre, è di dover a volte permettere che noi soffriamo per il nostro bene. Ma se potesse, ce le risparmierebbe tutte quante, perché il suo cuore è veramente buono, lo sa che purtroppo per il nostro bene non ce le può risparmiare tutte, ma se te ne può risparmiare qualcuno lo fa, perché il cuore di Gesù è un cuore pieno di compassione, di misericordia, no? Quindi sta povera donna, voi capite che a quei tempi diventare vedova, se perdi pure figlio unico di madre vedova, si dice tuttora, questo è figlio unico di madre vedova. Questo era figlio unico di madre vedova. Voi sapete che, cioè, a quei tempi era un po' un problema, insomma, quando una persona rimaneva vedova, ecco perché la Chiesa è subito intervenuta. Se vedete nelle lettere di Paolo, immediata, i diaconi, i cosiddetti diaconi, sono stati istituiti per andare incontro ai poveri, e specialmente le povere vedove, perché una povera donna, l'INPS non c'era, l'assistenza sociale non c'era. Se rimaneva da sola, spesso e volentieri, l'unica cosa da fare, purtroppo, era il mestiere più antico del mondo per la sopravvivenza, altrimenti era la fine, capite? A meno che non c'aveva qualcuno, per esempio il figlio unigenito, che lavorando provvedesse anche per lei, perché se qualcuno se la risposava era un guaio. Cioè, noi dobbiamo sempre, quando leggiamo i Vangeli, contestualizzare per quanto possiamo dentro il contesto sociale. Come l'altro giorno durante la messa, se vi ricordate, c'era la storia d'Abramo. Domenica scorsa, io, una delle omelie che ho fatto, che è stata su Abramo, tu per far risaltare anche la grandezza di Abramo devi contestualizzare, perché contestualizzando risalta molto di più la grandezza, insomma, di questo nostro padre nella fede, no? E quindi l'importanza di questo episodio è proprio questo, la compassione tipica del Vangelo di Luca di Gesù. Le disse: non piangere. Si accosta, tocca la bara, eccetera, eccetera, no? Quindi questa grande compassione di Gesù che ricorre in questo Vangelo. Poi abbiamo, andando avanti, sempre nel capitolo 7, la domanda di Giovanni Battista, anche questo è un episodio noto, e la testimonianza che gli rende Gesù. Allora, andiamo a vederlo. Ma voi sapete che Gesù era stato battezzato da Giovanni Battista, e durante quell'episodio San Giovanni Battista, per una rivelazione interna o per che cosa, non ha riconosciuto Gesù. Sono io che devo essere battezzato da te, tu vieni a me, gli risposi in questo modo, no? Ecco. Dopodiché però c'è questo episodio, no? Che cosa era successo? Non lo sappiamo. Forse potremmo pensare a qualche chiacchiera, perché se manda due discepoli a chiedere a Gesù: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Attenzione alla risposta che dà Gesù, perché la risposta che dà Gesù è istruttiva anche per noi, ci fa capire anche come Dio risponde alle nostre domande. Ricordate una cosa: Dio non risponde alle nostre domande mai in maniera diretta, mai. Risponde sempre a tutte le nostre domande, ma dobbiamo imparare ad ascoltarlo e a decodificare i suoi segnali di risposta. Come mai questi vanno a chiedere se tu colui che deve venire? Presumibilmente per tutte le chiacchiere che già si facevano, perché Gesù è stato una delle persone più chiacchierate, e non sempre, anzi non molto spesso in bene, che ci siano mai state nella storia, purtroppo. Perché le chiacchiere montate contro il Signore sono state veramente tante, tante, tante. Su questo è inutile che io riprenda sempre un discorso, ecco, attenzione alle chiacchiere, d'accordo? È una chiacchiera, a me per esempio è successo recentemente un episodio, sono venuto a conoscenza di una cosa, potrei parlarne, ma se ne parlassi creerei dispiacere nelle altre persone, tanto non serve a niente, è una cosa non gradevole successa nei nostri ambienti in questi giorni, che creerebbe rumore, me la tengo per me, se uscirà fuori in qualche altro modo, amen, se no me la tengo per me, perché tanto che la dici a fa? Perché racconti una cosa che mette una persona che ha fatto una piccineria in cattiva luce, a che pro? Non serve a niente se non che a seminare dispiacere, quantomeno a volte pure qualcuno si arrabbia, comincia a giudicare la persona, a parlarne male, a pensarne male, che serve? Dovremmo sempre essere un pochino, imparare ad essere un pochino attenti all'uso della parola, perché la maldicenza non è una diffamazione calunniosa. Se voi vedete il catechismo della Chiesa Cattolica, maldicenza è rivelare una cosa brutta che una persona ha fatto veramente e che gli altri non la sanno, senza che ci sia un motivo valido per farlo. Cioè, faccio un esempio: se uno vede oggettivamente, io parlo da prete, se uno vede con gli occhi suoi un prete fare una cosa oggettivamente brutta e grave, ma la devi vedere, deve essere che lo vada a dire al vescovo, fa bene, d'accordo? Perché non lo fa per cattiveria o per spargere la voce, ma perché il vescovo prenda sto prete e gli dica: figlio mio, che stai a fa? Cerca di darti una calmata, perché stai a fa male sta cosa, quindi perché la possa correggere. Ma andarla a parlare in giro non va bene, perché è una cosa brutta. E queste sono cose, dico, a Gesù gli hanno montato una montagna di chiacchiere addosso. Io mi chiedo sempre, ora riprendo un pochino le cose che ho detto prima durante l'omelia, no? Perché ogni tanto dobbiamo pensare, voi immaginate tutti quelli che hanno chiacchierato su Gesù quando sono andati dall'altra parte, immaginatevi la scena. E non tanto quelli che magari chiacchieravano essendo un po' ignoranti, ma quelli che chiacchieravano non avendo dovuto chiacchierare, che sarebbero dovuti essere i primi a capirci qualcosa e riconoscerlo un po', no? Quindi. Comunque, l'occasione contingente, vedete, che cosa gli chiedono? Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Gli manda a dire al Signore. Vengono da lui quegli uomini e gli dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te. Quindi non è un dubbio dei discepoli. Avevano seminato il dubbio, già Giovanni Battista. Avevano seminato il dubbio, se Giovanni Battista. E vedo di sapere che nel corso della storia, questo perché lo sappiamo per la nostra formazione, ci sono stati dei santi canonizzati che hanno dubitato di santi loro contemporanei canonizzati a causa di questo motivo, per le chiacchiere che si spangevano in giro. Per uno degli uomini più chiacchierati del XIX secolo, sapete chi è stato? Un grande santo. XIX secolo, non del XX. Don Bosco, quel poraccio di Don Bosco. Gli hanno detto da tutti i colori contro. Ma proprio io c'ho mio nipote che da tutti i colori, di tutti che i colori. Che c'aveva i sordi, che fregava i sordi, che faceva questo, quello, di tutto e di più. Quindi capite il potere nefasto delle chiacchiere, addirittura andò a mettere un santo che dubita di un altro santo, qui San Giovanni Battista che l'aveva, ha dubitato di nostro Signore, questo, cioè, non possiamo edulcorare il Vangelo, dici no, erano i discepoli, no, venuti da lui quegli uomini dissero: Giovanni Battista ci ha mandati da te per domandarti. Quindi non è che mi è venuto dubbio a me che sono discepolo, dice, non so chi devo dare retta, se devo dare il resto a San Giovanni Battista o se vengo appresso a te. Non è proprio lui. Capito? Il potere, per questo che Papa Francesco parla del terrorismo delle chiacchiere. Guarda, terrorismo pazzesco, brutto, bruttissimo. Dobbiamo farci attenti a queste cose qua, farci attenti. Lo dico, insomma, ecco, perché so anche quello che dico, ti appiccicano addosso una chiacchiera anche completamente infondata, non te la togli di dosso più, te la trovi appiccicata, la vita, la natura, ma per tempo, un sacco di tempo, e tu magari neanche sai da averci la volta addosso, capito? Ecco, in quello stesso momento, attenzione però, come risponde Gesù? Non risponde, dice: ma come? Ma battezzato lui? Ma visto che scendeva lo Spirito Santo e che il padre diceva: questo è il mio figlio prediletto in quale mi sono compiaciuto, ma che sei scemito? Gli poteva dare una risposta diretta, no? Cosa fa? Risponde attraverso i segni. Siccome San Giovanni Battista è un profeta, conosce la Sacra Scrittura, cosa dice Isaia? Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a sanare gli zoppi, a far udire i sordi, a parlare di stemutici. In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi, e donò la vista a molti ciechi. Poi dite loro questa risposta: andate e riferite a San Giovanni Battista ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i morti risuscitano, i poveri annunziano la buona novella, e beato chi non si scandalizza di me. Allora, vi ho detto che questa è una cosa per noi. Ci avete qualche problema? Io prego, ma Dio non parla. No, Dio parla, e come? Ma Dio non ti parla in maniera diretta. Dio, se impara ad ascoltarlo, ti mette in condizione di arrivarci, ti dà degli input, perché vuole che tu questo coso che lui ti ha dato lo impari a far funzionare, non ti mette la pappetta pronta, non ti dà le risposte a botta e risposta, non lo fa mai, capite? Immaginate quante mail ricevo io da parte di... Allora padre, c'ho questo problema, una persona mai vista né conosciuta, cioè, che mi scrive un'email, che devo fare? Cioè, ma la risposta adeguata, poi uno cerca di rispondere con tanta bontà, con tanta carità, gli dice: figlio mio, guarda, cioè, non ti conosco, come faccio a dirti una cosa del genere? Non c'è. Ma la risposta di uno gli dovrebbe rispondere: ma che so, dico, c'è un'altissima considerazione di me che mi hai scambiato per Padre Eterno, perché solo il Padre Eterno potrebbe darti una risposta di questo genere. Ma il Padre Eterno non ti risponderebbe mai in maniera diretta, non ti direbbe cosa devo fare, ti direbbe: comincia a pregarci sopra, fai discernimento, mettiti davanti al Signore, rifletti, pondera le soluzioni, e quando senti una cosa che ti mette nella serenità, nella pace, dice la voce di Dio. Questo è quello, Dio parla sempre così. Quindi diffidate, perché oggi girano bazzoidi, maghi, santoni, veggenti, profeti a destra e a sinistra, quelli che ti dicono: devi fare questo, questo. Quando sentite dire qualcuno: devi fare questo, questo, questo, questo, nei dettagli, io vi suggerisco: state attenti, perché Dio questo non lo fa mai, e non l'ha fatto Gesù. Gli fa vedere un pochino di cose. San Giovanni, conosci bene la Bibbia tu? Sì, la conosci, la conosci, sei stata una vita dentro il deserto, che sta a fare tutti quell'anno nel deserto? Frega l'orbo, dice mia madre, sei stato a studiare le profezie, dovevi parlare di me, sei stato il precursore, che cosa hai detto? Arriva il Messia, arriva colui che farà queste cose, le sto facendo, quindi io chi sono? Punto. Dio risponde così alle nostre domande, non diversamente. Ci piacerebbe a noi tutti quanti, ecco. Poi Gesù fa pure una bella predicozza alle folle, perché ogni tanto, con tanta calma, però qualche sassolino dalle scarpe, con tanta carità e con tanta bontà, nostro Signore se l'è tolto. Allora, dice, fa un panegirico di San Giovanni Battista. Dice, cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Quindi sta lodando che cosa? La fermezza, la costanza, la tenacia. San Giovanni Battista era tutto d'un pezzo, come gli uomini di Dio. Dice, cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quindi l'austerità, la povertà di San Giovanni Battista. Quelli che portano vesti sontuose, vivono nella lussuria, stanno nei palazzi dei re. Allora cosa andate a vedere? Un profeta? Vedete, no? Come Gesù dice, ma come? Appena dubitavo di te, tu fai il panegirico. Quindi sta facendo una ringa, perché dice, questi sono andati ad avvelenarli, e si capisce alla fine di questo versetto, nel versetto 30, lo vedo già alle mie spalle, con chi ce l'ha? Dice, questo è un grande uomo, più che un profeta. È il mio messaggero. E poi afferma, io vi dico, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni. Attenzione, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Ora vi faccio una confessione personale. Io con sto versetto, prima che l'ho capito bene, cioè sono andato a combattere per un sacco di tempo, perché dice, allora, chi è il più santo dei santi? San Giovanni Battista. Perché dice, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni Battista. Dice, e San Giuseppe, pensavo io, dico, non possibile. Più santo San Giovanni Battista era San Giuseppe. Attenzione però, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Cosa significa? Per capire il Vangelo, no? Tra i nati di donna di San Giovanni Battista, fino a me, quindi nell'Antico Testamento, è il più grande. Ma il più piccolo nel regno dei cieli, cioè tra i tre battezzati, è più grande di lui. Perché? Perché c'è la grazia santificante. Che San Giovanni Battista non era battezzato, San Giovanni Battista non è stato battezzato col battesimo di Gesù, eh? Quindi capite che c'è lo scarto, quindi è chiaro che San Giuseppe è fuori da chiudere. San Giuseppe era il padre putativo di Gesù, stato coinvolto direttamente con il nostro Signore Gesù Cristo, no? Ecco, il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Attenzione, tutto il popolo che lo hanno ascoltato, e qui vedete c'è sempre un, dice, Gesù è populista? Argomento di stretta attualità, qui c'è, capito? Sì o no? Pure Papa Francesco dico ogni tanto che è populista, che sta sempre dalla parte del popolo, anche, quindi tra l'altro poi in questo modo accostano Papa Francesco a certi politici che sicuramente non sono molto si sintonizzati lui a certi, vabbè, ciao Verde, queste cose qua, no? Però con il popolo intende la gente semplice, la gente non doppia, la gente che non si fa troppo, la gente che, guarda, questo è verissimo questo qui, ve lo assicuro, cioè le persone semplici, anche che non hanno nessun tipo di cultura, questo come diceva sempre un mio rettore di seminario, c'hanno naso, si accorgono se c'hanno davanti un uomo di Dio oppure no, non si mettono a fare tutti quanti le lucubrazioni, le cose che ti studiano a vedere come, e se avvertono questa cosa ascoltano veramente, mettono in pratica le cose che dice. La gente semplice e i pubblicani, cioè i peccatori, cioè le persone che stanno lontane da Dio. Guardate, io di questi fatti, posso dire, sono quasi 15 anni, mo tra due mesi faccio 15 anni di sacerdozio, io ne sono no testimone, di più, le difficoltà più grandi che si incontrano nel ministero sacerdotale oggi non sono con le persone semplici e che magari sono sempre state vicine un pochettino, un po' così alla Chiesa, ma non per scelta, sono con le persone che pensano di essere a posto, che magari sono anche più vicine e che a volte hanno pure qualche ruolo e funzione ecclesiale, mi vado pure, perché queste persone incarnano un certo spirito farisaico e di dottore della legge. Io so già tutto, quindi non sono aperte a nessun tipo di novità, cioè te lo dico, incrocio persone, passano 5 parroci nella parrocchia, tu sei uguale a prima che arrivasse il primo, identico, cioè, ma via, te bastano 5 e mi prendo qualcosa di buono dal primo, qualcosa di buono dal secondo, perché nessuno è, cioè, ogni essere umano ha virtù e difetti. L'attenzione, altre volte ve l'ho detto, questo vale anche per voi, è che devi prendere il positivo, cioè devi riconoscere i carismi, le doti, l'apporto che quella singola persona ti porta, e sopportare i difetti che c'ha, d'accordo, perché ce l'ha sicuramente, ringraziare il Signore e poi essere aperto a quello che ti porterà chi viene dopo e quello che viene prima. Però per fare questo tu devi avere un cuore ricettivo, un cuore semplice, un cuore che sa riconoscere queste cose qui, non un cuore già pieno di te. I farisei, i dottori della legge, guarda, questa è una cosa terribile, dice Gesù, non facendosi battezzare da lui hanno reso vano per loro il disegno di Dio. Ci sono dei passi del Vangelo, io adesso farei, se non stessi a fare incontro, 5 minuti di silenzio, capito? Rendere vano per loro il disegno di Dio, cioè Dio che è onnipotente, Dio che basta che parla e fa qualunque cosa, noi possiamo rendere vano il disegno di Dio, non perché siamo così bravi, ma perché lui c'è questa forma di rispetto della nostra libertà. Guardate che l'espressione, siamo in quaresima, ogni tanto si può fare questo discorso, non certamente per terrorizzare, ma per far capire, l'espressione purtroppo lampante di questa è l'esistenza dell'inferno. L'esistenza dell'inferno è purtroppo l'abitazione dell'inferno, perché l'inferno non è semplicemente un posto che esiste lì tanto per starci, perché le anime dannate esistono. Sicuramente la volontà di Dio non si è compiuta in un'anima dannata, questo bisogna proprio stare tranquilli al 100%, non siate calvinisti, Dio all'inferno non ci manda nessuno, né tantomeno ci predestina nessuno, come diceva Giovanni Calvino. L'inferno è aver reso vano il disegno di Dio. Questa è una cosa terribile, se uno ci pensa. E pensate che prima qualcuno ha citato Padre Pio, questo tra i grandi santi del XX secolo, Padre Pio diceva sempre, Signore, fa che io perseveri nella fede fino alla fine, tutti i giorni pregava così. E San Filippo Neri, l'ho detto tante volte, diceva sempre, Signore, tienimi le mani sulla testa perché Filippo se fa turco. Cioè avere questa diffidenza anche nei confronti di noi stessi, cioè, ringraziamo il Signore se siamo vicini a Lui, però sapete che se mi viene qualcuno che mi fa una lavata del cervello, come discepoli di San Giovanni, come San Giovanni Battista, se hanno messo in crisi San Giovanni Battista, possono mettere in crisi a me? Parlando male del nostro Signore, parlando male della Chiesa, oggi si parla male del nostro Signore, si parla male della Chiesa, si parla male del Papa, si parla male del parroco, dovunque andate, non esiste parrocchia, cioè, capite? Quindi non è detto che tutto non è detto che io riesca a passare in mezzo a tutto questo marasma e mi faccio sempre che rimango insensibile da un'orecchia mentre da quell'altra mesce. Quindi siamo tutti quanti, come dire, moderatamente a rischio, dobbiamo essere consapevoli, insomma, di questo, no? Subito dopo questo discorso, terribile pure questo, guardate anche qua, 15 anni di sacerdote, una delle cose più belle quando uno conosce il Vangelo e cerca di viverlo, se fa attento, è che chiaramente Gesù non c'ha bisogno della testimonianza mia per confermare la veridicità delle sue parole, no? Nel Vangelo di Giovanni dice: io non ricevo testimonianza da un uomo, cioè queste cose che lui dice sono vere e la verità ce l'hanno da se stessa, ce l'hanno a livello intrinseco, capito? Non c'è bisogno che vi dico io ne sono testimone, credeteci perché è vero, però vi posso dire che io ne sono testimone. Allora, dopo aver fatto sto panegirico di San Giovanni Battista e aver detto chi è quindi che ha avvelenato San Giovanni Battista, questi sono quelli che hanno avvelenato San Giovanni Battista, sono quelli che anche non solo dinanzi a lui ma anche dinanzi a Gesù, anziché aprire il cuore, hanno cominciato. E poi spiega perché San Giovanni Battista era attaccabile con le chiacchiere per certi aspetti e Gesù per altri aspetti. Voi avete mai visto una letterina che gira su internet, c'è il parroco, se prega sta sempre in sagrestia, se sta con i parrocchiani non prega mai, sta sempre in mezzo alla gente, se non fa la processione, è modernista, se fa le processioni è bigotto, è devozionalista, cioè, comunque fai, capito? Non esiste, capito? Non esiste la possibilità di... Allora, Giovanni Battista, immaginate, trovi davanti Giovanni Battista, cioè, anche questa è un'altra bella scena, tra l'altro giorno di San Francesco, no? Non mi ricordo se forse una festa di San Giuseppe, diceva, ma se tu ti vedessi davanti oggi San Francesco, tu pensi, che bello San Francesco, vieni qua, sei il primo dopo l'unico, come dicono i francescani. Ma tu ti vedi davanti San Francesco oggi, dici, ma questo lo porto, lo ricovero su tutta la stante, lo rifaccio fare il trattamento sanitario obbligatorio, questo è matto questo qua. Capite? Con tutto il rispetto a San Francesco, capite? Perché ha incarnato dei segni talmente forti, che erano forti anche ai suoi tempi, però almeno ai suoi tempi erano contestualizzati in un clima infarcito di religiosità come era il Medioevo. Oggi ti metti in giro con San Francesco e dici, ma questo è, capito? Immagina se mi vedete a me così, no? Dice, ma c'è venuto il parroco, c'è venuto il parroco matto, mo ne facciamo la letterina, dice, va, non lo mandiamo a parrocchio, va a fare in chiude, no? Capito? Allora, tu immagini, trovi davanti a Giovanni Battista, i Vangeli dicono, vestito di pelli di animali, si nutriva di locuste e di miele. Se immaginate, uno vedeva San Giovanni Battista in una pausa a pranzo, cioè aveva le cavallette in mano, vive, se le mangiava così, cioè, capito, no? Cioè, se voi vedete le serie TV dei serial killer, queste cose qua, dei deviati di mente, vedete che si mangiano gli scarafaggi, le cose, dice, se mangia le cavallette, che problema è? Se mangia le cavallette, dice, ma questo è, ma, capito? Poi si alza in piedi, comincia a dire, serpenti, razza di vipere, la scure, la genna, andate tutti all'inferno se non vi convertite. Allora dice, chi è questo? È indemoniato. Questo è indemoniato questo qui, no? Non è indemoniato, è fuori di testa, capito? Cioè poi, ah, ma che ti pare, la fede è così brutta, questo mi mette paura, mi minaccia che vado all'inferno, ho capito. Allora Gesù dice, beh, non ti piace San Giovanni Battista, mo vengo io. Vado a cena con i peccatori. Se converte San Matteo, dico, Matteo, stasera fai una bella cosa, fammi parlare con gli amici tuoi, gli portavo una bella parola pure a loro. San Giovanni Battista, Gesù non mi... Cioè, parlava dell'inferno proprio quando era indispensabile, parlava poco, parlava dell'amore, si piega sulla... Allora fa risorgere il figlio della povera vedova, è dolce, è mite, è tranquillo, insomma. No. Questo mangio con i peccatori perché è peggio di lui, sì, quello è andato al banchetto di Matteo, ma poi finito il banchetto lo sai che succede lì, no? Questo è un bel ragazzo, giovane, c'ha 30 anni, ma chi lo sa come va a finire poi sto banchetto, no? Che c'è andato a farli? Ma questo lo vedrò, cioè, più avanti lo vediamo, no? Quando va Maria di Magdala, tra poco, capitolo 7, non so se lo vediamo oggi, Simone il fariseo dice, si picchia, c'è una donna ai piedi di Gesù, gli piange ai piedi, gli asciuga i capelli, poi li bacia. Tutti sapevano chi era Maria di Magdala. Maria di Magdala non era una prostituta a pagamento. Maria di Magdala era una bella donna, ma bella che quella attuale che ti faceva girare la testa, che si dava la bella vita. Se qualcuno gli piaceva, c'era bisogno dei soldi. Gli piaceva, punto e basta. E sto bel ragazzo trentenne, a cui una donna di questo genere comincia a fare queste cose, subito, lo vedremo. Allora Gesù dice, va bene, dunque così. Allora, ci sono due modi per arrivare ai cuori. Uno è imperfetto e l'altro è perfetto. Uno è il timore. Fargli venire un pochettino di sano timore perché stanno conducendo una vita disordinata. Dargli dei segni forti, capito? Tu sei pieno dei soldi e io sono vestito con la pelle di cammello. Tu mangi e banchetti lautamente, io faccio talmente tanta penitenza che mi mangio le locuste. Questo è un segno forte, è un cazzotto nello stomaco, d'accordo? Ecco. Poi c'è un altro modo, dice no, il cazzotto nello stomaco, dice tu sei fuori di testa, va bene. Allora facciamo un altro sistema. Non ti terrorizzo perché stai camminando verso l'inferno, cosa che è vero, ma cerco di farti innamorare del paradiso. Quindi non ti prendo per la via del timore, ma ti prendo per la via dell'amore. Ah, no. Queste sono, capite? parli della misericordia di Dio e cominciano a pensare a Dio misericordioso, ah, quindi chi se ne frega, magna, bevi, dormi, pecca tanto, Dio alla fine, ma hanno tutti imparato queste quante volte che me l'hanno detto. Così, di una cosa tanto bella come la bontà, l'amore di Dio e la misericordia, ti fai un passaporto dell'inferno peggio che se fossi un grande peccatore, capite? Perché quella è una è farti burla della divina misericordia quando la tratti così. Allora Gesù che dice? Bene, abbiamo suonato il lamento, che a San Giovanni Battista, e non avete pianto. Allora abbiamo suonato il flauto, e non avete ballato. Che è successo? È venuto Giovanni Battista che non mangia pane e non beve vino. Voi dite, demoniato, mangia le locuste tra l'altro sono pure un animale satanico, capito? L'invasione delle cavallette, la piaga d'Egitto, capito? Poi nel libro dell'Apocalisse ci stanno scritte tutte queste cavallette, quindi chi lo sa, avrà fatto, sarà mezzo un demoniato. Poi è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve. Ah, ecco qua, ecco qua, altro che qui bisogna fare penitenza. Guarda questo, magna e beva, fai bagordi e poi con gli annessi e connessi. Ecco, mangiò un buon amico dei pubblicani e dei peccatori. Lui non va, lui va lì, mica per cercare di pulire, va lì perché è come il lupo, va là a divertirsi. E che vogliamo fare? Una persona semplice, un peccatore, gli va bene sia che viene uno che lo suona, questo ve lo dico io. Io ci ho avuto non sempre lo stesso stile, in passato suonavo un po' di più, ero un po' meno buono, ma vi dico, le persone disposte all'ascolto, anche quando ero molto più severo, hanno cambiato vita, e le persone non disposte all'ascolto te ne avete da tutti i colori. Le persone non disposte all'ascolto, anche quando cambi stili, li raffini con il tempo, le persone buone si convertono più volentieri, perché è più bello avvicinarsi al Signore attraverso la bontà, questo è sicuro. Ma quelli che sono felici dicono, boh, divento più buono, vedrai che anche i cuori duri. Niente, zero, stare tranquilli, questo è proprio incredibile. Però nostro Signore dirà, ti dirà, lo sentiremo dire il Venerdì Santo, no? Avete visto il lamento, popolo mio, che male tu fai? Che altro avrei dovuto fare e non ho fatto? Dimmelo tu, dall'altra parte, dimmi tu che cosa volevi. Anche tutta quanta la grandissima varietà dei santi, ce ne stanno di tutti i tipi, di tutti i tipi, di tutti i colori. Quindi non è che dici, sai, a me quello mi sta antipatico, non mi piace quel tipo di santità. E che problema c'è? Ce ne stanno infinite di tipi. C'è chi va presso i poveri, c'è chi predica il Vangelo, che ne so, c'è chi istruisce la gioventù. E c'è chi parte che va a missione, c'è chi fa il prete, c'è chi fa il monaco di clausura, si ritira nel deserto, si mette in un ordine religioso, quanti te ne pare, laici che sono vissuti, sono santificati col matrimonio, laici che non si sono sposati, sono diventati grandi professionisti, guarda San Giuseppe Muscati, San Beato Contardo Ferrini, Santa Giovanna Beretta Molla, Pier Giorgio Frassari, tutto quello che te pare. È solo a conoscere le cose. Ragazzini, bambini, adolescenti, ragazzi, adulti, vecchi, giovani, sposati, laici, preti, suore, frati, morte, tutto. Che altro vuoi? Il problema, il dramma proprio. Adesso, poi come una mano che arriviamo vicino al tempo di Pasqua, il dramma è il cuore dell'uomo. E quindi concludiamo per oggi. Ecco, appunto, vedete come subito Luca ce lo mette subito, appena parlato. La cosiddetta peccatrice perdonata, tutta la tradizione cattolica, da San Girolamo soprattutto in poi, qui ci ha visto la famosa Maria di Magdala, anche se oggi qualche esegeta lo dubita, io personalmente, la mia idea personale, non è necessario crederci per forza perché non c'è il nome di questa peccatrice, perché questo è uno dei tanti passi del Vangelo dove per, capite, perché dire il nome di un peccatore non è proprio molto caritatevole nei suoi confronti, no? Capite? Quindi egli entrò nella casa ed ecco una donna peccatrice di quella città, l'abbiamo già visto, che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato, fermatasi dietro, sapete perché dietro, no? Questo è un po' perché gli ebrei, così come i romani, nei banchetti mangiavano non così, non c'era un tavolo, mangiavano sui triclini, cioè sui letti sedile, anche gli ebrei, anche nell'ultima cena, quando Gesù lava i piedi degli apostoli, lo può fare, certo si è inginocchiato con una certa facilità, per quelli stavano stesi sul lettuccio, capite? I triclini, vedete i film sui romani, c'era un divanetto, una specie di lettuccio, si mangiava così intorno a una tavola. Quindi questa si mette ai piedi di Gesù e comincia a piangere, li bagna di lacrime, li asciuga con i capelli, li bacia e li cosparge di olio profumato. E qua cominciamo subito. Vedete, perché le chiacchiere, state attenti, con una fase molto importante di crescita è passare. Gesù dice nel Vangelo: state attenti, state attenti tutti, la bocca parla dalla pienezza del cuore. Quando tu dici una cosa, tante anime che conosco, era meglio che questa cosa non la dicevo. Abbiamo visto ieri che il saggio pensa a quello che dice, mentre lo stupido dice quello che pensa. Però quello che pensi è quello che c'è nel tuo cuore. La bocca parla nella pienezza del cuore. Sapete quante volte a me è successo che mi sono arrivate cose, dico, e io ci penso, ma non è che ci penso per giudicare, ma per capire. Perché quando una persona dice qualcosa di getto, ti dice quello che c'ha nel cuore. E se tu ti fai attento, non per giudicare, ripeto, però è importante anche conoscere e comprendere, perché tu devi un attimo pure capire chi c'è davanti. E questo vale anche per voi, non soltanto per un prete che deve capirlo il doppio, vale anche per voi. Allora, a quella lista il farisea che aveva pensato, pensò tra sé. Ecco il pensiero. Noi dobbiamo preoccuparci non solo delle nostre parole, ma dei nostri pensieri. Questo pensa male. Perché pensa subito male? Se costui fosse un profugato, subito. Se questo fosse santo, se avesse compassione, se avesse carità, farebbe così. Questo è un giudizio gravissimo. Ma questo sicuramente non sarà da confessare. Guardate che stiamo attenti anche con le confessioni, perché noi a volte le facciamo grossi quanto una casa. Un pensiero di questo genere è un peccato mortale, non è un peccato veniale, perché sta attribuendo intenzioni cattive a Gesù sulla base del nulla. Perché il pensiero corretto è: c'è una peccatrice che ne ha fatte di tutti i colori e io concedo a questa donna che sia sincera e che va a piangere ai piedi di questo che è il Salvatore, e questo accetta questo gesto di pentimento pubblico, tra l'altro. Basta. Questo è pensare bene. A questo pensa subito al male. Voi capite che quel fatto, scusate se mi fermo, però io quando faccio gli incontri, qui non è soltanto fare la cultura biblica, capito, che ci parliamo del Vangelo, poi facciamo belli, abbiamo capito. Queste cose dobbiamo mettere in pratica nella vita, perché Gesù ha detto queste cose non per raccontare qualcosa, ma perché le applicassimo. E quando tu pensi male, dici: perché penso così? Qual è il problema? Cosa c'è dietro questa malignità? Dietro questa malignità? Dietro volere sempre vedere il male? Simone il fariseo, io non so se se le fate queste domande, perché la confessione ancora non esisteva, ma tanto se fosse esistita, state tranquilli, vi parlo per esperienza, non l'avrebbe confessata, ve lo dico io. Ne sono sicuro al 100%, ok? Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, che specie di donna, qual è che lo tocca. È una peccatrice. Quindi già pensa male e poi pensa anche a quello che dovrebbe fare. Se fosse santo non si farebbe toccare. Cioè, lui ha una sua idea. E chi te l'ha detto questo qua? Sapete quante volte ti ho detto? Se fosse... Ma in quale libro rivelato sta scritta una cosa del genere? Dove sta scritta? Vedete, Gesù, che leggeva i pensieri, guardate anche qui, no? Non fa l'attacco diretto, perché Gesù ci prova sempre, perché se tu fai l'attacco diretto, nessuno ama essere in prova. Gesù, siccome vuole la salvezza, con tanta pazienza, cerca di farlo capire. Io, mentre parlo di queste cose, capite? Guarda, fa finta di niente. Simone, ho una cosa da dirti, come se niente fosse. Guardate, anche questo ci fa anche capire come fa Gesù con noi. Prima abbiamo visto come fa Dio a parlarci: ricordate queste cose per il vostro bene, anche per quando non ci sarò più. Ma come fa Dio a farti capire una cosa? Che tu stai sbagliando. Allo stile di Gesù, non alla San Giovanni Battista, viene: ah! Che ti ha pensato tu? Disgraziato! Che non ti vergogni per niente di pensare a queste cose del maestro? Vatti a confessare! Gesù dice: Simone, ho una cosa da dirti. Fa finta di niente. Sapeste quante volte i preti fanno finta di non vedere, fanno finta di non sentire. Poi alla prima occasione, vabbè, allora, ho una cosa da dirti. Maestro, di pure, tranquillo, tranquillo, non sei scomposto. Dice, mica lo sa quello che penso. E io per esempio non lo so quello che pensano tante persone, ma non è difficile capirlo. Non lo sai, ma quando c'è un po' di esperienza, io lo so che da quella parte, ma lo capisci subito. Però fa finta di niente. Sì, ma non ho una cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condona il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Di chi sta parlando? Vediamo un po'. Chi sono i due debitori? Dai. Di chi sta parlando? No, Gesù sta parlando di due persone concrete. Bravo. Sta parlando della donna, 500 denari, e di lui, 50 denari. Simone probabilmente con Maria Maddalena non c'è stato mai. Non avrà mai neanche mai fatto magari un peccato mortale. Questa è una cosa molto simile a quella che poi si riproduce nel figlio il prodigo, col figlio minore e il figlio maggiore. Dice: però questi i soldi ce l'avevano. Ha condonato a tutti e due. Che cosa gli sta già dicendo? Indirettamente: tu ti scandalizzi che questa è una peccatrice, tu forse non le hai fatte grosse come lui, ma pensi di non averne fatta nessuno? Glielo sta dicendo, no? Perché comunque non devi 500, ma devi comunque 50. E quindi vi fa pensare a un altro episodio del Vangelo? Vi ricordate quando prendono le pietre per lapidare l'adultera? Ah, disgraziata, l'abbiamo trovata a letto. Siamo cominciati a dire che non devo giudicare, l'ho colta a flagrante. Mo che famo? Mosè ha detto che bisogna lapidarle. Siamo pronti? E Gesù si mette a scrivere col dito per terra, d'accordo? E si dice che scrive col dito per terra, mormoratore, bugiardo, il rispettoso dei genitori, bestemmiatore, protestante, tutti quanti i peccati dei presenti. Dopodiché, dopo che ha scritto un po', dice: bene, chi è senza peccato, cominci. Capito? Perché lì non ci sta solo, lì ci sta il giudizio verso l'operato di Gesù, ma c'è anche lo sprezzo, la condanna verso quella povera disgraziata. E tu che ne sai che ci stava dietro la, dentro il cuore? Perché una donna si riduce a fare una vita del genere? Perché una donna comincia a darsi la bella vita, a dare il suo corpo in giro a destra e a sinistra anche a gratis? Siamo noi così bravi a giudicare la persona? Perché? Gesù non vuole che si faccia questo. Allora lui risponde: suppongo, probabilmente già comincia a sentire, Tex Willer diceva, fredda ai piedi, comincia a agitarsi un po', no? Dice: beh, suppongo quello a cui hai condonato di più. E Gesù gli risponde: hai giudicato bene, vede il modo? Ce lo porta, piano piano. Hai giudicato bene. E dopo interviene: vedi questa donna? Tu lo sai proprio, dice. Sono entrato nella tua casa. E mo qui comincia a farglielo delicatamente notare. E tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Sapete che tra gli ebrei, a quei tempi, non c'erano le strade e si camminava con i sandali, non c'erano le scarpe con i calzini. Questa è un'abitudine attuale. Quindi appena entrava l'ospite, specialmente in un banchetto, la prima cosa, il servo gli portava un catino per darsi una rinfrescata, perché stava tutto quanto zozzo, poverino. Tu non me l'hai portati. Guarda che la divina volontà ha disposto che quello che tu non mi hai fatto, questa me la sta facendo con le lacrime dei suoi occhi. Tu tu non mi hai dato un bacio. Tra gli ebrei si salutava Shalom e c'era il bacio, che poi tra i cristiani San Paolo lo trasforma nel bacio santo. Lo facciamo pure tra noi, no? Capite? Ci si dà un bacetto, è un segno d'affetto, è un segno di benvenuto. Ok? L'hai fatto? No. E questa non accettava di baciarmi i piedi, che è un gesto umiliante, capito? Baciare i piedi è un gesto umiliante, perché vuol dire manifestare, come dire, il proprio essere meno, la propria sottomissione. Poi, tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, altra tipica usanza ebraica, perché a quei tempi in Palestina, specie d'estate, se l'anno prossimo ci andremo, come qualcuno mi comincia già a chiedere, prossimo viaggio, l'anno prossimo in Terra Santa, se uno va a agosto, tu sei completamente frascico. Quindi oltre al problema dei piedi, c'è pure il problema che a quei tempi, specialmente Gesù, beata lui, si portano i capelli un po' lunghetti. Se te fai una bella sudata, dalla testa non viene proprio un odore entusiasmante e si mette un unguento sopra e si offre all'ospite. Non gliel'ha dato. E questa mi ha cosparso i piedi di unguento profumato. Allora? Allora le dice anche un'altra cosa. Debitrice di 500, ma guarda che cosa ha fatto. E io gli perdono tutti i peccati che ha fatto. Tu ne batti di meno, ma non sentirti così sicuro che tu la perdoni tutti. Quello a cui si perdona poco, ama poco. Capite quanto è costruttivo? Allora, vedete, nostro Signore, quando facciamo qualcosa che non va, non ci attacca direttamente. Al limite te manda qualche San Giovanni Battista, che ogni tanto comunque ci fa bene, è una bella spazzolata. Però il problema di San Giovanni Battista è che in molti temperamenti suscita l'avversione, che dice, suscita la ribellione, dice, ma questo che può? E che si tratta così la persona? E che mi aggredisci? Siccome questo il Signore lo sa, e siccome comunque è uno stile migliore, questo vale anche nei nostri rapporti interpersonali, mettiamolo in pratica, capite? Cioè quando qualcuno sbaglia, fa qualcosa che non va, il rimprovero diretto, ricordiamo il Vangelo, tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi. Tu saresti contento se una persona viene e ti sbatte in faccia una cosa vera, giusta che hai fatto? Guarda, sei insopportabile che ti si rivolge al prossimo in un modo così superbo e altero che meno te vedo e meglio sto. Supponiamo che sia vero, è la verità. Il nostro Signore questa cosa te la farà capire piano piano se tu gli apri le porte del cuore, ma in questo modo, con calma, con gradualità, con dolcezza, magari te fa sentire una predica o una cosa o qualche cosa che tu, senza sentirti attaccato a tu per tu direttamente, possa però riflettere, interiorizzarla, arrivarci e dire è così. Perché comunque fare un gesto di conversione, riconoscere un errore, è una mortificazione. Qualcuno di noi è contento di avere difetti da correggere? Qualcuno di noi è contento di non essere perfetto? Diciamoci la verità, non ci piacerebbe essere, a me piacerebbe essere perfetto, mi piacerebbe, ma non per fare lo splendido, capito? Per non trattare mai male nessuno, per non essere mai sgarbato, per servire il Signore, per praticare le virtù, ma non per farlo splendido. Perché Gesù ha detto nel Vangelo, siate perfetti, perfetto il vostro celeste, no? Però ci proviamo, però stiamo tutti quanti distanti. Ecco. E allora come facciamo? E allora nostro Signore, però quando noi abbiamo il cuore aperto, me lo sentite dire fino all'esaurimento, perché io ormai mi vado convincendo di sta cosa, il cuore aperto. Se uno ha il cuore aperto non c'è problema da cui nostro Signore non ti faccia venire fuori, non c'è, è solo questione di tempo, perché piano piano le cose che lui ti fa capire ti scavano dentro e piano piano le risolvi le situazioni. Ma se il cuore non è aperto, sinceramente non ci stanno santi, non c'è né Giovanni Battista né Gesù, non c'è niente, rimani sempre tale qua. Anzi, col passare del tempo, perché sta brutta legge, perché noi abbiamo il peccato originale, per cui i maestri di spirito dicono, nella vita cristiana, se tu non progredisci, regredisci. Non capite? Dicono che la vita cristiana, concludo poi che siamo già arrivati alla fine, è come una barca nel mare. Se tu una barca nel mare, non c'è il vento, non c'è il motore, non sta ferma, va in balia della corrente. Quindi o tu la guidi e la fai camminare o coi remi o con la vela o col motore, oppure la corrente che noi abbiamo è purtroppo una corrente retrocessiva, perché noi per peccato originale siamo inclinati verso il male. Quindi se non prendiamo in mano la nostra vita e cerchiamo di fare qualcosa di meglio, noi torniamo indietro. E tra l'altro la navigazione, dicono i maestri spiriti, è sempre controcorrente, perché tu c'hai il male che ti succhia e ti cerca di... e la spinta verso il bene. Lì nostro Signore poi ci dà qualche bella ventata che faccia prendere il largo, no? Però questa è la realtà. E perché la grazia operi e noi cooperiamo con lei, ci vuole il cuore aperto. Se c'è questo, c'è tutto. Se non c'è questo, sono guai. Ecco. Quindi mi ricordo, per il vostro bene e anche per il mio, che ho fatto un po' di ripassi, ogni volta che passo li passo pure io, quindi queste cose qua me le devo dare pure io, ricordiamole sempre. Quindi attenzione a come ci parla Dio, mai chiaramente, ma sempre facendocele capire le cose, e a come ci corregge Dio, mai direttamente, ma sollecitandoci piano piano, nella misura in cui siamo umili e apriamo il cuore alla sua correzione. Siamo anche però disposti, non dobbiamo fare l'analisi sui pensieri cattivi che facciamo. E quando arriva un pensiero cattivo, bisogna dire: fermate, tu che vuoi, da dove vieni, perché sto pensando questa cosa, cosa c'è dietro. Questo è uno step successivo, ma quando si fa questo step successivo, sapereste quante cose che escono fuori e quanti problemi che si risolvono. Va bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti ringraziamo, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Signore, ci conceda la sua pace e la vita eterna. Amen. Grazie a tutti della presenza. E viva Gesù e viva il Vangelo. E viva Gesù e viva il Vangelo. Al Festival di Sanremo gioca con Team. Partecipa al grande concorso Team Unica. Vai su concorsoteamunica.team.it.